Alcuni dei nostri denti li chiamiamo molari perché per forma e posizione servono a triturare il cibo. La mola era la pesante macina del mulino sotto cui finiva il frumento. L'omologia fra la bocca e il mulino è chiara, no? Dalla loro messa in opera scaturisce il sostentamento più idoneo per l'organismo e per la società preindustriale di cui questo organismo fa parte. Oggi questo non è più terreno fertile per le metafore. I mulini sono bianchi e luminosi come specchietti per le allodole e le bocche sono ingegneristici artefatti la cui funzionalità è direttamente proporzionale al conto in banca. La mola era di pietra e a forma di ruota, ovvio dunque che desse il nome anche a quel disco di materiale abrasivo dalla cui rotazione si ottenesse l'affilamento di lame e coltelli, un risultato per il quale nel passato è occorsa una vera e propria professionalità. Così come nelle nostre strade capitava l'ombrellaio o il penat, colui che raccoglieva le piume dei polli, delle galline, dei volatili trasformati in cacciagione, capitava anche il moleta. Capitava. E incurante di quell'infame legge dell'attuale libero mercato secondo cui nulla, se rotto o malfunzionante, ha da essere più aggiustato, capita ancora. In una via cittadina l'altro ieri mi è dunque capitato di incontrare un moleta in versione moderna, particolarmente attrezzato per tentare una resistenza all'insulto ideologico dei tempi. Non è più in bicicletta, ovviamente, e non esibisce più la tradizionale mola che lo ha reso tale. E neppure il moleta d'oggi grida più a tutta voce la sua utile presenza sotto casa. Viaggia invece in auto sportiva, munita di amplificatore e registratore, accosta ad un marciapiede e semplicemente preme un tasto. Una voce abilmente studiata allora recita l'antica tiritera, che promette affilature meravigliose per lame e coltelli, forbici, manare e mannaie, cui tanti Jack lo squartatore che vivono sotto le quiete spoglie del nostro vicino di casa sicuramente non sanno rinunciare. Concettualmente, nella propaganda del moleta in versione terzo millennio, le novità sono due. Una che ne conferma la forza e l'altra che ne anticipa la debolezza. La prima è costituita dal fatto che alla versione italiana del suo annuncio al mondo fa immediatamente seguito la traduzione integrale in una sorta di veneto bresciano che sagacemente viene a testimoniare delle sue radici e di quanto queste radici siano tuttora ben solide, piantate in una tradizione paesana che garantirebbe sudori della fronte e risultati ineccepibili. Il ricorso al dialetto, a maggior ragione in una grande e bolsa e stranita città come Milano, è sempre infido. Può significare schiettezza e umanità leale, ma anche truffa ideologica, come capita allorché qualcuno all'improvviso nel discorso lascia una lingua per passare ad un'altra perché ha bisogno di toccare certi tasti di confidenzialità per rafforzare il proprio potere persuasorio. La seconda novità, ahimè, è costituita dal pacchetto delle sue offerte. Infatti, all'alta specializzazione storica che lo contraddistingue, alle lame, alle forbici, alle mannaie, il moleta d'oggi aggiunge gli ombrelli e le cucine a gas, artefatti sui quali la classica mola, mi immagino, possa poco. Imbastardendo l'arte tradizionale, la più ricca gamma di servizi non depone a favore del suo futuro. Fatto è che, a meno di non considerarlo un agente dei nostri servizi segreti nell'esercizio delle sue delicate funzioni, assistere al grido del moleta nelle strade di Milano induce a malinconica tenerezza. Quel rapporto di un tempo fra la casa e la strada, quel rapporto da cui poteva giungere disgrazie o aiuti, eventi di importanza vitale per la famiglia secondo un calendario amabilmente inesorabile, quel rapporto fatto di ascolto e di voci attese o temute, beh, quel rapporto è da tempo disciolto, svanito, lasciato al passato remoto. Ora chi a casa ci sta chiuso ben dentro e ci sta dentro ben chiuso. Si analgesizza davanti ad un televisore acceso e si gratta la rogna della propria esistenza di stanza in stanza, dal frigorifero al mobiletto bar, dal cesso ben caldo al letto, dal telefono al telefonino cellulare e viceversa. La spontaneità del sociale è ridotta a rischio, a pericolo che nessuno vuol più correre. Dalla strada Dalla strada siamo disposti a percepire l'ululato di una sirena, l'allarme di un'automobile cui non fa più caso neppure il proprietario, il fragore di un incidente, sì, ma nei nostri piani di ascolto posto per un moletta non c'è più. Come non c'è più nei nostri schemi comportamentali il momento di mettere da parte il coltello che non taglia più e portarlo in strada al riconoscimento di una voce fidata. Nella città non c'è più nessuno che sappia far funzionare gli strumenti necessari per riaffilare la sensibilità umana di chi la abita.